il re culo al taglio. Uia, la circoncisione, Nati. Però lo più forte la scappi, che tu che fa Lugane, che è tutto canto leopardato, che l'ha detto che erano tutti di Mao Mao, che lui se ne aveva fatto una giarada, e che lui si è cattato il bombo, e l'ha detto che lasciamo noi, Mao Mao. Mao Mao, è vero, l'ha detto il tipo che si è incazzato. Ero troppo ridente quando è successo questa cosa. Ma manda roba di fuori di campo. E chi tu che si è fatto operata via là? Aspetta, cosa ha detto? Che ci aveva la patatina imperiale, una cosa del genere. No, veramente, questo programma è fuori di campo, eh. No, già la giuvisco, mi pare che l'ha detto, ma lui non gode, lei non gode che ce l'ha fatta di pratica, l'ha detto. È impossibile. E chi dice, ma cosa stai dicendo? No, che c'è programma, entra in pura di gamba vero, entra ne. Poi se no, Giovanni non mi ha fatto arrivare quando ha posto questa canzone mixata, viva il duce. C'è il suo da recuperare. Io ogni tanto, ma io vabbè, non è che mi sono cacciato a cadere un telefono. Ma anche in realtà Antonio, mi domanda che anche lui mi dice il giorno, cazzo, provi me. Sono fatto, però sul programma è troppo dopo, Cazzo, la dica giudizio che tu c'è metà di comunista, ci stai che tu da nemici, da fare con un colpo di picca a capo che stampa le cose belle. Chiedi della tua numero piccone, te non metti, comunisti, picconate. Ma questo programma finisce che ci ho finito a capo, vero me? Non è così, no. Catalano, ma a me cosa è successo? Sempre che sono colugani, che fate il parrucchiere. Cioè, chi sono Maltesi ne parla di tutti i casi? No, esita! Sapeva sta cosa, perché fate troppo ridico, troppo ridico. Cavano un momento. Cazzo, chi sei tutto canto scimmiato, andi in esito. Tutto fuso, la carriera di te sei la donna più bella che ho visto. Mannaggia, però sto andando a correre. Forza Romanaie, forza Romanaie. A casa suona il campanello, vado giù, vado a vedere la chiesa, mi fanno le domande sulla chiesa, sul signore, mi hanno detto a me, ma lei come se lo immagini il paradiso? Ho detto pieno di figa. Chi se scatti, chi tu che fa Lugani? E come se lo immagini il paradiso? No, e a chi? Tu Giovanno. Questo praticamente racconta che ha trovato questi testimoni di Geova e gli ha detto, ma lei come se lo immagina il paradiso, ha detto, pieno di figa, gli ha detto. No, chi si è copiato forte, va, mamma mia. Una saputa normalmente cosa pulia, ma quello del Mau Mau, ma cazzo, sono stato 2 ore ridendo, ho contato. E quello, ma cosa? Troppo forti, c'è un video a carnevale, si è vissuto da tipo da Hitler, l'amico era tipo Mussolini, Gabirucci, ed era nel nato a un palazzo, e ha detto, le porte della cavolo, fuori di gabbo, mi ha detto che non sei qui, mi pare grazie. No, oh, chi se fa problemi? Non l'hai vista la moglie di cosa l'ha detto? No! No, io non ne mangio carne di maiale, l'ha detto, lo so, perché è la sua religione, ma noi quando andiamo al supermercato compriamo quella di suino, e se la porto il bollice in culo era in ciuna da prendere i bistecchi e baffuline a così, non l'hai visto il suo video? L'ha detto che era la mossa del capitano. No, come fare per la vasca? Mi dice le risate. Chi si sono troppo fuori di gamba? Chi si è fuori di gamba? Che da voi in questo programma l'ha detto, altro l'ha detto, ma io faccio il barbiere abusivo. Ha detto, come fai il barbiere abusivo? Sì, io sono un parrucchietto abusivo, non me ne frega niente. Ho visto, è copiato. Mi. Il balcone, amore mio, puoi pensare Dammi una palla. Dammi. Chi se fa problemi, ma problemi seri però. Non hai visto quando è correndo e si vè ma per un castello di ortoppo e dice forza Roma dai, ma se io dappo metto la mano qua, che so io? No! Ci attacchi a narrivino, ci siete bruciato fuori. Chi ce lo fa problemi seri, va, mamma mia. Adesso li date di questa legge 40 dei mancanti li date. A 74. Ma secondo me è un mediente che senza travaglio e senza inghippi va a pigliare di una di cuscini mi. E da qui se ne andate a correre a fare i garriti, hanno fatto San Michelino. E a chi tu ci vuoi? È vero, io. Non so a fare macchina. Io se te ne so un po'. Ma purtroppo se non c'è lavoro, a che cosa io ti avevo inventato? Le risate qua, le risate che mi faccio un po' di fronte. Cazzo, ma Grido, e Grido torna che era torna le zanzare, che cazzo punti gli enni, che l'ha detto mio babbo, ha detto va via i serpenti nella china, che tu, adesso non me lo ricordo, non mi viene a mettere perché si chiama. Cazzo, il dialogo che ti ha bruciato, che tu cazzo da tua, tu torna e fai. Ve ne sono scimmiati in giro, ma scimmiatemi. Giù, chi sei? Staffa, no, Ernie, che un'amica mi ha dato della testa di agnello, perché mi ha mandato la buonanotte, su questo che non l'ho risposta, e allora ho dovuto dare la buonanotte. Poi sono uscito fuori un attimino con la pila, la nuova che ho preso, che illumina molto. Per avvertire i cinghiali che se toccano le fave domani mangiano piombo. Sono attaccati la fava, sono attaccati pure. Partita dea e sono andato correndo. Cioè, di giocare, mi è un buco, mi una cinquantina. Però ho paura, sai, per il pollaio e per le fave, se no mi devo mangiare io, no, Ed. Se tocca nella fava ne mangio a Ed, me la fitti nulla. A stare di bongo, mi mangiare, tu, quattro piotta e mi rirampo, non è puccato a me. Ah no, c'è il bideggi e ti fa il sughetto. Il cugliere ti fa il sughetto, guarda che non lo faccio di più di toccare la papa. Manco capo tengo, ne piglio di due quarti, di tre, di due quarti, di due metai, selezionati, un po' di spettacchino, un po' di cose, un po' di ballacce, poi carota, sedano, sull'allera con la cipolla, il padellone, e si organizzano gli amici. Prendi, sono puttini, riprendo già. Eia. Io farò sai cosa hai di fare, in mezzo a rugoso di raffava, non hai di chi si marre o di chi si sta, per il buono in terra così da chi racchiccia di cui lo roccio a capo di cui. E tanto lo dici, oh io ci affura il gatto con un roccio che come una battuta da tutto. Oh, mira di passata la stappa pura, monta di tu, ma la subita da sei mina lì, vaga a pitti, e che sono uscita a pestire a Edi, mi sono giuncato un gruggio, per casa del gatto l'astrello, per stappa in giro in mezzo ai guglioni, cazzo ma ci sono giuncato un gruggio. Ciao Franco, ben ascoltato, mi una chiacchierata, come gli suonere i ladri dal mezzo al campo di fame, la giudizia alla stagione che si sappia, le carte marre, così da chi si può prendere a papa, si fuori la stappa, sul luce della stappa a faccia. No, non ha funzionato, alla vera. Ma con chi sta parlando? Sì, c'è Antonio e Giovanni. Ma Giovanni non si compra una lunga. Giovanni è tipo in campagna là. sta un po' in campagna, ma stasera si sentiva. E magari un po' distante dal microfono, perché quando si avvicina un po' di più si sente meglio. Ma che la fanno? Ma non ha per le segnali. Comunque buonasera Giovanni, buonasera tu. Si è finta di ripugnare Giovanni, va. Vai avanti. Oh già, io lo sento ma è incomprensibile, non si capisce quello che sta dicendo, mi capito. Ti arriva bene, è incomprensibile, non... E magari c'è il microfono amplificato, quello è appena troppo alto, va. Però io lo sento bene, là, non bene, cioè già lo sento. E magari è che ti vicino a te, non lo so. Comunque, se arrivi bene, benissimo, però è incomprensibile, non lo comprendo quello che dice. Ma in te, fra, ha detto che non si comprende, arrivi bene, però ha detto che sei troppo forte. Troppo forte. Ma come? Il tuo cammino non gioco, a zero lo gioco. Lo so che sia a zero, però è troppo... Se sarebbe stato leggermente meno tipo amplificato, sì, più chiaro e più dolce come voce. Tu ci sei un po' esplosivo, mi. Ma che ho portato il dato, non ho detto mai un conosciuto. Ah, non è che io ti sento molto bene qua, abbassa un pelino, abbassa, poco, però che non ti sento molto bene neanche io. Ah, che cosa, aspetta che abbasso questa cosa. E che cosa devo abbassare? Sto parlando a voce bassa, sto parlando. Ma è lui che ha fatto il venuto da abbassare? Boh, e capito? Ok, vieni a vedere adesso com'è. Perfetto, mi senti adesso, adesso ti sento chiaro, chiaro, chiaro. Allora, magari parli appena un pochino più distante, fra 2 centimetri, ti sento ancora più dolce, più bello. Poi non so di attaccare al microfono, io mi raggio un braccio. No, avanda, avanti di un mese di Asta arriverà. Vai, falla di là. A che tagliamo la tua esattamente? Eia, gaffa Roggero. E mi sono mangiato i due costi. Già va bene, ma ci ho mangiato... Boh, cosa ne so, un pugno di bistacchi, di bistacchi. E mi ha subito appena una data di pelle morte. Vabbè che sul retro gusto, bello fresco. Io mi la giovo tanto la mamma, mi piace la ritmo per la data. Se ti costi va bene, si può venire in asciuttorio, Giulia. E arrivato acqua e limone, è zucchero. È buono, è dissetante. Però cazzo di limone a Damigiana viene buono siccome sta lì. Da voi Giulia, ma ne avete trudi, vince che la mongolfiera si bomba. Ma che? E cazzoffa non te ne hai buco giù, ma che bumbo di cazzoffa, lì c'è buona me, a un uso, a crudo. Oh già, veramente lavori buoni, a chi mi piace il burro, la cazzoffa e cosa. Se credi mio, la padre, potrei domandare a Antonio, vicino di campagna mio, se mi ribuca un po' di tassi, se mi ribuca mi ribongo. Con la cazzoffa non... ma già me l'hanno detto come c'è tutto canto, ci ho piantato di tutto di più, ma con la cazzoffa non faccio mai fatto, dai, un bel affitto. E me la voglio buonione quanti tassi, una ventina, dai, io ci vado a me, a casa, boh. E già andavo, ma pure se ne hai una resina e andavo, si viruppeggiano e a crudo, magari se inghiri in campagna a Bastigene e dai una cazzoffa come se un drunco e la bui mano a mano della magna. È buona, già è buona. E poi c'ha le vitamine giuste. E da lui la cosa di campagna è sempre la più buona, la più che fa diverso. Oh già, a me mi piace un bel cotta con un rubattato, aglio preso simolo, oh, gli andando manco. E io dici, vi raggio ogni dita magno. Infatti me ve lo voglio dire, Antonio, se ne è come un vicino che dice già, hai detto che mi ribucava, dai, si conduenza da mi ribucca io mi ripongo. A chi sono cazzato a pigliarli in un luogo e la verità è non mi hanno convinto assai che si tassi, perché per me non era manco roba nostra. perché chi mi parla me come me, no, che è roba nostra, brutta, completa. Eh sì, no, la roba dei noghi è più genuina, molto più genuina. E allora già fa bene, sì. Già è buona come sei di Spiduni, fatta in veggi, col bastasso, uia. Una cosa micidiale, buonissimo. E pure magari a Serravanella vi butto di questa donna menorida, ci lo daremo di questo suffice marrone già isso. E invece di questo un poco vanglioso duccio, ma era giusto, senza di più uscire a cosa, ci volevi travagliare. No, la terra è buona, tutto questo che fa un cuoio, è matura buro. Pevaroni, zucca, pongo, la verità, ma pulisci di buono poi no, il terreno è buono. A che reba non la posso cercare? Quando vengo che è bella fresca, se ti passo sulla lera, ma se ne giù quanto è, e mi rabbiano sempre per la concimata, comprendendomi. Quindi è sempre buona, qualsiasi cosa pongo esci. Però ti ripeto già, tu sei sempre lì a dare queste cose, chi pure ci vuoi buoni, fa venditi mica che cosa, sai, oggi la gente mi sa che, non lo so cosa ti sei. Oh, si vira rigari, e tanto con. Tanto lì di me si attira dopo pure a 50 centesimi. No, Ica, no, non li voglio, non li mangi. E cazzo si accontentano di mangiare a mezza che me ne arrecano da punta di calzino. Non lo sai che dico sì. Niente, come sei tu due, ancora, quando buchi a che capodagnone o a che cosa, mi si fai la tua, lo gamenetto, se no, tu buono in forno, buona reddo, da usare per tutto, come sta mangiare subito che si mette a dire la gara, che fai, quello ti dà un po' di nutrimento, ti dà. Va a me, un amico mio, di Tergo, me ne arrecando con i quanti grabi, ma ripongo più calcio per pulire la campagna, compresa, se ci vuole già di più, si mangia tutto, io mi si è fatta la grappa, no? Si respirerà con loro pulito, direi che si mette di cannau e mangiare tutta la vita, tanto che ne pesi è tutto pulito, alla vecchia maniera, finalmente. Bello, da voi se ti fai l'uratti, buonareddo, è buono il latte di capra, me. Da voi come sei su giù, in chi si buoni a mangiare sta l'ebba, però ora vi diria, se no se ne mangia tutto. Ah, oh, questo sera, come ti facciamo un tempo, se ne a me? Ne avevi due, tre, e li riavi all'aibolo, mano a mano ci ambavi i rubetti, si puliano i rubetti, vabbè, l'uratti, mi veniva pure un evante di lisci presci per fare un piace. Adesso abbiamo fatto tutto per me, faccio il viaggio di rubo fuori, faccio un magazzino, i vivi, ti pongo un frigo, mi sì, no, un frigo viaggio, ti pongo un ci faccio in veranda, mi faccio pure un viaggio. E durante, vabbè, io è un vico pure così, capa. Infatti no, ma è bello così, è bello. Se da voi ti fai sabato di un cifletto di cosa è, ti fai un recitaletto con il bianello in giro, e ui, adesso sono alla grande, so. No, parisci hanno fatto problemi, sopra era arrivato vai giù delle vecchie fucilaie, e ha disattato, faccio pezzo, a blocchetta e cosa, mi rampo un muro che fa da di giugno, e vedi che mi porta a stalla, comprendendo, chi sei a fare? Si pone 4-5 palle di fieno, fa facciarsi da nulla, compresa. E poi durante la linea di buco e si è andato a travagliare tanto, forse, e me li penso di più, ma sai, guarda, cosa vuoi? Ah, il figlio, il video, mi volevo fare la paccura da chi, e me li posso andare pure a travagliare, se cazzo ci sono travagli. Un gas un grabba pure un galo me. Ma non ne vendo a nessuno, vai tranquillo che amico magno e intanto mi è più caro voi lì, tutto dice che voi. Quando ne cazzo di grabba ne vuoi. E accanto è, non ne voglio. Se a voi te lo regalo, cammino, ok? No. Va, me lo magno io. Poi tu fai qualche regalo qualche amico. Ma quindi non ne vendo. E allora, dai cazzo di aro tutti quanti secchi so, e non sa nero travaglio che si vuole i baffani, cazzo due berri di forma di cose di gas di grabba. E a te meglio che te lo fai tu e ti rimane a te in chi stagionato e non hai di più di nulla, oh, a buona rete, mi ha dato un pezzo di tondo, un pezzo di gas. magari ti fai due salsini in fatica, in veggi e mangi bene. Oh, c'è l'HD, un amico mio, è stato la bocca da me, ha regalato una buccia di merito, con una rete vera, blecco, blecco, voglio che sia pulito male. Ma ci posso la cosa manna, aglio preso il semolo, appena dopo arriva, corri me, mi ha già fatto questa magnata, ma uglia, buona rete vera. È buono, è pesce celeste, è troppo buono, E non ce n'è, mi, non ce n'è. Da voi si buchi anche poi fudinoghi, un buon di fu, un'altra graviglia, uia, lascia perdere. Visto me la ci ho fatta agliata, ma ricordo buruizzo, agliata, buonareggio era. E vedi, già un'altra graviglia, buonareggio, Adesso, specialmente quando sei a Candurutocchi, chi c'è un bagurori che è ancora vivo, se lo fudi un'altra graviglia, uia. Io no. Come ti facevano i vecchi di prima che mangiavano questa cosa sana, era sana, era. A mano invece mi ha tutti questa cosa sana che si lavava in bagatto dei bocchi tanto, maledetto. Oh già, fino a che siccome faccio pure un rio, ed era un po' d'anni, anche quando allora viaggiavo con un burro capace, no, che allora si era corriva a me burro, a cavato. Era un rio che stava a Mirinassi, a pesare anche da che mi tirava mi piace del rio. Oioia, si va viva in un'altra graviglia, mi dici, a suonare si la suonare. A peso me sono tornato a sta, a che da sta lì la giubizio un paio. A peso me sono tornato a sta, voglio ancora che non sta vecchia, a va la conto, si deve capigliare la Miramagna. Ehi, Aranghida, va, mi pare che è nata Aranghida, ehi. Sì, per la guida è buona figo, Prima di aprire, no, va comincia, vai a metà mese, comincia a stare, va sì, che tu non ti vedi, compreso, Quando vedo che comincia a stare un fiuto, niente, mi ci vedi che le vai l'italista, compreso. Quando vedi un fiuto, allora piatto di nasce, compreso, va racconto, una giuna, bella, manna, da buonino, un chiusino, che fai un filanato, e poi la giocchi, il lusso, compreso, e me la porto una volta sorpacciata. Ah, se la voglio raggettando e mi la piglio pure da chi, da Platamona. Le chipi per la giù tutto l'anno. Pongo poco, me. In un'oretta una decina di chili mi riporto. Eia, e infatti in chipi per sempre. Una volta in chipi abbiamo impigliato a Riccagno di Platamona, però era mandato in noi. E poi abbiamo impigliato nei canti gassi per dire. Tu! Fatta per me, puttana in forno, con la bumata, la zioda. Cazzo, racconta, sei asciutta. Ma quella iatta non ha mangiato. No, allora da zio i chili. Io faccio la licenza, faccio, già compreso, E io venaggio pigliato, cazzo. Ho fatto car fishing in ogni rogo. In ogni lago di Asagina ho preso buscato. La voglio la passione, va via. Però ci ho compreso una cosa, che ci ho compreso come si pigliava che c'è anch'io, alla maniera, a canna da bestami, no, nasce e nuda, no, a canna da battito d'una, con questa specie di mangime che ho scoperto, fino a che non si brucia di... a tiro una, ma bella grossa, bella bruga pittona ci ho pigliato pure. Poi dalla bocca mi sono guardato, vai con l'anghita io, però sai come c'è, alla più fine da voi, oh vabbè, cosa io me la pentivo, però alla più fine da voi basta, ti ne scegli la legge di me. E io lo so, guia, ma infatti noi un po' di gusti, quando pigliavamo i cacchanghita, magari una decina d'anghita. Da voi faravamo di fagiosi di fronte alle libari, che si guardano la becca e l'ancoletta, poi ogni musa rubeddu, di chi si pusa a chirumi, burina tra la graviglia, l'anghi del musa, l'uoia, che si mangiava a bobovesia, da voi tagliavi gli cuscini di varoni, a farli i cuscini, alla braccia, non ce n'è, e mangiavi bene. Che ci andavo anche io a Mugini lì, era la porta di Isenzo. E mai vi sei andato qui alla porta di Badini. Ah, sai cosa abbigliamo a me noi, curanghita? E la capi andava un galleggiante con l'ancoretta e mezza anghita appiccata all'ancoretta, senti da 5, 6 kg, o gioia, non se ne pigliavano. Già lo so, già, no, alla porta di giusto noi faravamo. alla fosa di giusti, da cui pigliava mica che tinta, che ha un bacio di gozo, però tu più era rumusaro bello, e poi pigliava il buco che si veda di furrizzacca e a che sarà che tu buco l'ancoretta me, si passava di fu l'ubrancareggio. E in mezzo a mezza rumusa rumusaro che sarà, e si capitava. Quando tiravi si cantava pure lui, ma gli via voglia, pensi sarete un pigliato che si rompe con vai dare giù, ma non ricordo, ma ancora viene, ancora vai fare in gli via, si dà ancora bene. E io, certo, avanti Franco! Capo, volevo dire a Giovanni, tu dovresti avere qualche problema all'antenna. Non ho capito niente. Questo no, non è compreso nulla, ma in radio va bene. Se tu parli troppo vicino, adesso un po' ti ho capito, se è troppo vicino è, non so come ti dici, esci, capito? Oh, io non sono vicino, io sono quasi 50 centimetri dal microfono, ma poi da un poco. No, adesso sei perfetto, oia, rimani così, oia, tranquillo, adesso sei perfetto. Capo, ho detto che tu dovresti avere qualche problema all'antenna. Ah, questo non lo so, lo devo dire al mio tecnico, chiama Antonio un attimino e fatti spiegare la situazione, perché io nel questo campo un po' come ne intendo. Ma Rosa! Stavi parlando, è strano che non ti ha già detto nulla a nessuno. Sei sceso di segnale a 3, sei sceso, e modulazione era incomprensibile da me, era incomprensibile, e adesso ti sei aumentato tutto un colpo. Guarda adesso, 1, 2, 3, prova. Sì, adesso va bene, adesso sei 9 modulato, sei 8 modulato a 9, te lo radio 5 adesso, ma poco fa io non ti capivo niente. Ah capo, forse aveva ragione, sì è vero, può darsi pure che, sai cos'è, non stavo schiacciando bene il microfono, dai, forse aveva ragione, è vero. Ah, infatti ha detto a Gianni, ha detto, ma un cazzo è proprio bene, che non comprende nulla, e mi ha detto, con tu e Giovanni, ma a Giovanni non intendo, ha detto. Dai, adesso ci arrivi, dai, mi senti adesso, ma dai, sei vicino a me, sì. Vicino a te, vicino a Gianni, so. Capo, allora siamo vicini tutti e tre, da. Sì, d'accordo, ma eri incomprensibile però come radio, eri incomprensibile. Fate giù, tu come ti guardi Gianni e Cusano? Queste voci mi hanno capito e l'appoggio solo, compreso. Ma adesso continuano di bene, mi si comprendenti, no? Sì. Però già, hanno pare che chi ciamba no, la situazione, ve lo devi, è inutile che lo fai continuare, magari per qualche cosa che gli fa di danno e recupereggia. Sì, agappa, no, ma poco fa me ne sono accorto anche io, stavo parlando ed era tipo un pochino basso, da voi deve essere afficciato appena di più il microfono e ha ripigliato a infinisci più bene. Ma c'è qualche problema, c'è, perché si è abbassato molto di segnale anche. C'è qualche problema di qualche cosa, per quasi, diciamo, frullatura. Anche se non schiaccia bene il microfono, il segnale deve essere sempre quello. Invece no, visto si è abbassato di un tutto. Capa, c'è qualcosina, sì, in effetti c'è ragione. Antonio lo deve rivedere un attimino. Antonio, bravo, un grande bomboli. Ma perché sta andando adesso, sì? Adesso va bene, ma poco fa stavate parlando con lui e non gli avete detto che si era abbassato anche di segnale. Io da qua non me ne sono accorto, io lo sentivo sempre bene a casa. No, è strano, che se si abbassa in Oga si abbassa pure in te e in Yarugo. Vabbè, va bene così. Vabbè, là, l'importante è che ci sentiamo. A te ti piacciono le anguille? Che male sono più buoni. Papà, allora non ti preoccupare, avremo modo anche di mangiarle, dai. Andare, niente, avanti già. Ehi, a KK, magari c'è qualche problemino all'antenna, come ha detto poco fa, che l'hanno sistemata, mi sa forse i piele del cavo. E niente, e magari adesso se la riguardano un po' più bene con le giornate belle e magari si rabbono più a fuori. Se non sbaglio mi ha detto che c'hai un arringo, vero è Giofà? Capa, sì, no, ma c'ha ragione, deve fare un piccolo ritocchino Antonio, dai, e poi l'importante è che è giusto per adesso, capito, poi la ritocchiamo e già migliorerà ancora di più, dai. Capo, no, ma diciamo, poco fa veramente non ti capivo niente, si svolgeranno a segnale 3, segnale 3 e radio doppio, non si capiva niente, si sentiva che stava modulando, però non si capiva. No, ieri già ce l'avevo un problemino, ma era una questione di alimentazione, ma adesso abbiamo cambiato, diciamo, ha cambiato tutto. Capo, sì. Vabbè, però intanto te l'ha fatto, controllava bene, anche se no ti dovuto fare a caso un problema. Capa, dato già ti sta sentendo. Io sto usando sempre la stessa radio, una cosa strana. Capa, vabbè, forse non è così, che mandi di FM, devi appena alzare, magari mi tingheggi. Capitano, adesso è perfetta, proprio va bene. Scappa, l'unico più piccolo sono io che arrivo da te, cavolo, sono lontano. Vabbè, non è che arrivi male. Qui stai arrivando un segnale di 9, 9 qualcosa modulati. Andiamo a me. Sì, come... come ti posso dire, quanti mi sono altri da Sassari Peggiani che mi arrivi 9 o a testa, 9, 9, 5, dipende, quando attacca poi non se ne fa vedere. Giovanni non a testa, arrivi 9. Giovanni io? Certo. Ma io non so di Sassari, no? vabbè, tu sei yoga, ma mi arrivi 9 lo stesso. Capa, dai, ho migliorato, prima non ero così, Guarda che... con l'altro se non ti ricordi mi chiedi a Gianni, non mi sentivi con l'altro che era più piccolo. E l'altro è molto più basso, già mi ricordo che è molto più basso. Non mi ricordo adesso di se eri 6 o 7, però eri più basso. No, ci arrivavo proprio poco. Eravamo io, tu e Gianni l'altra volta. Ci arrivavo poco con quello lì. Vabbè, era scarso di alimentazione, c'ha ragione Antonio. Ecco, sì. Ma anche io avevo un, come si chiama, un alimentatore di quei cinesi, quello così. E vedevo la radio che si abbassava di tutte le luci, si spegneva. E io ho detto, ma cosa cavolo succedendo? No? Abbaidavo. Allora, l'alimentatore ci aveva 13,8. Come schiacciavo il microfono si sfumava a meno di 12. E così la fra? Alimentatore. Un attimo, mi sto rispondendo al telefono un attimo. Sì, no, io la verità. Con gli alimentatori switching sono tanti anni, non ho mai avuto nessun problema. Era giocata a Burgurugo quando all'epoca avevo il Kimbundo. L'ho usato un po' come il Kimbundo e pumpava che era una cosa micidiale. Sì. Io adesso perché ho staccato il presidente di Lincoln, l'ho staccato, ma domani me lo piazzo qua, me lo piazzo direttamente, in modo che esco con quello lì, col Tanner e Scemigio. Sì. È buono, cioè, no, andiamo da me. Ripeto, io non è che potevo comprarmi alimentatori di linea e cosa, quando avevo comprato il Kimbund come l'avevo venduto, ma a tempo buono, se mi entro al lavoro come mi devo entrare, ho deciso di ricomprarmelo, se ci travaglio come... ho deciso di comprarmi un 140 o un altro, o qualche cosa del genere. Capo, Sì. Ma io sto usando il 440, adesso sto usando, con l'MC60. Poco fa con il microfono c'avevo la, il coso, l'MC80. Anch'io c'avevo, c'avevo anch'io quello lì, con l'MC60, è una bomba, quando abitavo nell'altra casa, una bomba. Sì. E questo è il 440, abbinato con la MC60, e lo senti, no, che sta uscendo bene. Sì, ma che è quello che c'è l'accordato, è vero? Sì. Quello che ho avuto io. La moto ce l'hai? Ce l'avevo da prima, poi avevo avuto un problema e me l'avevo venduto. E poi mi ho comprato questo. No, questo non ce l'ho da molto. Ce l'ho un annetto, penso. Non mi ricordo adesso. È della mia Sassari, no? No. Ciao, chissà che mi ha fatto del mio. Quello che avevo io. Questo era di Gozzo, era. Praticamente era di... Quello che c'avevo io era di Gio' Maria. Aveva bruciato di finale. Poi, cioè, vabbè, l'acqua ha comprato un'altra persona e poi l'acqua non girato a me. Poi io l'avevo venduto perché avevo bisogno di un po' di adinilla e a radio, perché purtroppo stavo senza lavoro, ero in inguagliato, ero senza travaglio, senza nulla, e ho dovuto prenderla. Poi stavo nascendo il bambino, con un tratto, se no mi davi un ancora io, c'è il radio. Vabbè. L'hai venduta per cose buone, non per cose, per fischio. No, poi ho avuto anche 430 nel bar, per radio, e poi non ho più comparato più, sempre il baracchino. Sì. Io a fianco a questo ho il 680 anche, cioè, sempre della Peugeot. È bello. Io sto ripensando di ricomparmi, sto ripensando. Però lo voglio con l'MC60. Però avanti, non posso perché sono pieno, tra carico di spese. Ho troppi problemi, oh. Non me lo posso permettere. Ah, va, vediamo a luglio se arrivi nei 10 di là. 10 di là che mi devi dare di quelle per quelle dello spettacolo. Perché, cioè, perché io ho fatto la domanda, ho fatto, se mi arrivano quei soldi mi sa me lo ricopro. Perché ti danno, quando sei fermo, ti danno un'indignità dello spettacolo, ma ti danno 2-3 mila euro. Se mi accettavano con la domanda, mi dovrà comparare. Non sarà va, sarà a luglio, sarà. Ecco, sì. Va bene. Avanti già. E a me, i musei mi avevano una spianatina con prosciutto e lattuga e salata. E niente. A Rumacco senza un po' garibù di bussi. E allora, usci tu, vai tra i bussi, e allora, con il pianadino, un coso, un peperone di chi tu piccante, chi tu siciliano. Mamma i turchi, e da voi che se do cacciato, saranno tutti viene la fresca. Come ti ho detto? Dice, compare, faccio male, vedi che non lo può camminare, di nessuna lì, ma lì non può camminare. Aspetta, te lo posso, te lo posso. Se la posso fare parole, se la posso, come se la conosciai, non lo sappiamo più. Ehi, a ti credo, via. Ma dormo la posso. Così è. Avanti a tu. Scappa. Che mi stava facendo una chiamata, una bianco. Eia, va bene. Giovanni, andate vicino. Sicuramente è allontanato. Forse non me lo metto. dubbio. E beh già. Che ti pelata con la mussarella? Buona è fraco, prosciutto crudo, dolce. Ah, sì. No, io poco fa non avevo voglia di farmi cucinare niente, ma gli ho mangiato un panino, ma gli ho buttato un'unicante pezzo di mussarella, gli ho buttato in mezzo, poi mi ho mangiato una mela, ho tutto a posto. Ma che, buona lì due. E niente, è stato Gavino a salutare poco fa. Capo, sarà in festa ancora. Ehi, oggi festa, compleanno della bambina, e ha fatto la festicciola, gli ha fatto, bello. E va bene così. E già si vu. Capo. Sì. Andà bene. Sì, ho messo poco, poi mi separo. Ma poi dopo questa televisione poi mi trovo. Eh sì. Comunque quell'antenna che c'ha Giovanni è una mezz'onda, eh. Vabbè, anche se è una mezz'onda, già va bene, dai, già esci. Credo che stanno bene. Però, per baciarsi questi due segnali, una cosa non è solo dallo microfono. Aveva qualche problema, ma l'ha detto. Infatti, quando mi ha detto che scendeva a Rio, ho giocato pure una cosa strana. E poi ho contato anche per la stessa radio. Ma se tra Gavino mi dice, buon Gannino, il microfono e poni l'MC80, che è meglio. Perché magari lui si sentiva troppo forte, mi è compreso, e quindi non lo so, fra. Però io già ti sentivo qui, forse magari perché siamo vicini, però effettivamente eri leggermente troppo forte. Anzi, si dice di subare pure a te, più a te che a Eddie. Ma io la tua timbrica adesso la conosco, compreso, ma... Capo, aspetta un attimino, te lo riattacco col microfono. Lo vedi già, questo è l'MC80. No, adesso sta andando bene, è dolce, è molto chiara e molto comprensibile. Però ansura varia di più, un bel potente esplosivo. Magari hai stato un po' una volta, ma fa vedere le cucine, va bene? Cappa, no, è perfetto così. Giovanni, ci sei Giovanni, o se ti sei venuto, la zia Gullubi. La zia Gullubi. vabbè, sto scendendo con 10, 20, 20, quasi 30 modulati. Magari fosse fallito. Comunque, io non c'è niente attaccato. C'è solo un microfono amplificato lì su MB2 alla radiolina Midland 68. E sto andando così adesso fino a quando non sistemiamo la vettomiera. Ho comprato il commutatore di antenna per usare due radio, diciamo, e ho comprato quello Daiwa C1. Capo, a due o a tre? No, a due, fra, mi basta due a me. Capo, vabbè, che ce ne sono, è meglio essere a volte, però quella roba lì costa una barca di soldi e stanno aumentando i prezzi, che è una meraviglia. L'ho presa dal sito mi direttamente, praticamente la giubba che da cavendo nel bisticcio mi 52 euro spedito. Un bel pagato, un bel, e purtroppo di manco roba è nuda, roba di cazzo sulle buste. Ci vuole una cosa buona, deve pagare. Allora, ce n'era uno su eBay, l'ho fatto vedere a un amico, e praticamente era uguale ma era di concorrenza e costava 40 euro, invece ho comprato l'originale io con 10 euro di spedizione e poi c'era tipo non lo so così, era 1,60 euro, 1,80 euro di assicurazione per il corriere, compreso. E ha detto, ma vaffanculo, va a me lo compareggio, ma si sta in ghibli, si intende. così quando ho fatto il cavo, la cameretta, ci posso mettere anche il cavo nuovo io da 5 metri dalla scrivania qua del salone. Se entra dentro e fa di tutto il ruiu. E magari poi metto l'altro cavo nuovo nell'antenna e quello che c'ho, l'altro piccolo, il cavo che sto usando adesso, quello me lo metto in quell'antenna Diamond X30 che c'ho il raccordo per la radiolina PMR e penso di dover che funziona ancora più bella la radiolina la Bur. Ecco, sì. Qual è il C? Il C1? C1, mia, vatti, lo mando. È fatto tutto in metallo. È metallo azzurro, mi pare che è. Non è giusto un prestigio, ragazzi. Già è buono, ma almeno che si può fare un coso buono che dura. Magari mi dichiedi che io fossi di manco da voi andare e ci facciano e ci bruciano i raggi. Infatti, no, la fa buono lì. La fa buono. La giù per loro, questo, ragazzi. Eia, comunque già va bene, dai, almeno ce l'ho. Se capita che cambi radio o cosa, e c'hai un'antenna e due radio, perché tanto si può fare l'inversione così. Sì, no, io ho la CX201A. Mi pare che sia questo, 201A. Che si va a dire? Un attimo. Aspetta, permetto, sono mandato, però, molto vecchiotto, se non è uguale, più o meno uguale, come cambia colore. Magari nella foto a chi non si vede bene se sarà a casa, ma magari sono prestigi i colori, appena più chiaro, appena più scuro. Se mi state chiamando, se viene al telefono. Lo sapevamo che viene al telefono, non tu. Chi è l'altro che ti manda? Papà, vediamo che sei schio, se me ne esco. Tieni la palla, Gabriele, tieni la palla, amore mio. Tieni la palla. Ecco. Oh già, visto là il mio. Uguale, quello c'è il PL259, il classico del barattino, così è. Sì. E caschite, un classico PL. È già giusto, già va bene. A Roma Cubiraggio, da chi si firmiamo la bettomiera. Oggi si è da da busta addosso. Come te mai? Oh, non lo so. Deve essere la carregata di fanghiaia, un lecco e se tutta varata. Siamo ritornati lì. Sì, certo, è da da busta. Vabbè. Sì, alla telefono anch'io, un'amica voleva fare karaoke. E non me l'ha dato qua, me l'ha detto che il microfono non è abbassato. No, ho detto che adesso ero occupato e ci vediamo domani mattina, dopo colazione. Anche la colazione ci avrei buttato. No, oggi c'è tutto il tempo, non fai presto a baghi così, no? E poi per tutta la rimanna, da Nanzi, a Vuglia, che fa karaoke. Vabbè, sto scherzando. Vabbè, se non buffonemmo, Giulia. Allora, già tu. Giulia. Che sono karaoke. Cosa c'è Gabriele? Cosa c'è? Mamma mia, chi c'è che non ha brutto? Ma mai ha fucito con me buonasera, mai? La salufa che allegria! Cappa, ma è cattivato, eh! Così stanotte dorme sogni d'oro, Antù! Cappa! Questo sabato a casa, questo sabato. Ma lo prossimo non lo so, se non devo travagliare, il prossimo menando, in giro menando, a divertirmi. A che? Cioè, giustamente, pure lui non ha più bisogno di distrarmi un po'. E dove vai a rubarsi Valdinandi, a fare latino americano e zumba? Non è che mi dà da sé andare in Kiwi. In Kiwi tutti gli altri che sono raccogli, so. Ma ti si fanno bene niente, però. E già lo so. Ma pure lì. Io già vedo che si può fare andare a Gucca, vedo una bozza. Però devi conoscere gente, se non conosci niente sei in Kiwi, arronzato. No. Cosa fai? Vedete che conosci amici? Allora per un locale che hanno messo un chimè, non so, un di più la scarpa, che su chi vendia il telefonino che ha sarrato, che tu mi ha guardato abbasso, i chimè, un localino bello bello, ne guardo, tipo discoteca, ma da nemmeno niente della idea mia, compreso già. A che entravi in giù, magari ti pigliano il baroguro, anche se... Cioè, guardo già 41 anni, quindi... però già ne entrano anche dalla metà. Ma magari se vado tutto bello branciato, già... Già ti vado entra puro, dai. Anto, io mi sono messo con una più grande di me. Fa anche il 69, li fa a ottobre. E quindi è bella branciata, dai, e quindi quattro presionati e due puntati di prima e seconda. Vero Anto? Oh Anto, si nota che andare sul locale che vai a che femmina. Magari come i GPT ti ascolta, ma cosa sono? Da sole o da vita? Allora, il prossimo mese, come ti mirate, lo stipendio mi organizzerò, cioè, mi compareggio rimorti nuovi, qualche cosa, mi brancio tutto canto, e non mi dici rotti, non mi ha tutti nuda, la macchina la molla in occhi, anche se no, si fotto di mare, non andava perché magari mi cuda anche loro. Andare in giù qui a Roma, perciò ci sono le amichette, un po' con tre che track, vai, discoteca bomba. Anto, venga io di vostro autista. Allora facciamo così. Ma che? Comunque dice che è anche al Toluca, però è già diverso al Toluca. Al Toluca bisogna andare a mangiare una pizza e da voi si buona una badana, così è. Ho visto un paio di video. Ma è sempre roba di Jiki Chuck, Andi in chiave via Roma, alta discoteca, Già so belli, si locali sono belli. Però non lo so, adesso già cominciano la sera ai brini. Vabbè che abbiano i buri d'inverno, mi pare che so sempre. Mi dà il gatto fuori, altri localini così. Oh, Anto, ma poco fa hai detto dove c'è la scarpa, veniva telefonini, ma che ti aveva tornato un po' lì? Di fronte chi, vimi? Beh, hanno fatto un locale, roba di fuori di capo. Ah, vero? Lo so io. Scarpa, avanti giovane che siamo da Gianni. Oh già, Antonio ripiace la Techno House, compreso, non ripiace le chicche tricche, no? Techno House, andrà pesante a musica. Ma che, altro chi dice un buffer, martello, disco martello. Quando arrivava di mamma ne entrava nel bucciare e cominciava tu. Yahoo! Guarda, si bomba tutta la cappotta della macchina, si fa un subwoofer con il pianto, oh io. Da voi la vedi la vecchia vigliacca pari garrere, ma giochi! Lì ci vedono sempre, ti lamenti. Ma ti passavi con il buffer a palla, oh io, frate amarete di curia. Sì, no che, ma che? A me in carriera più di una volta mi hanno mandato i carabinieri, mi. E le macchine parcheggiate, meno male che lo stereo era spento. E mai lo sa più carina, era una più vigliacca che vera in via Sardegna, c'è sotto tra nemmeno e Franco Casia. Se lo veniva nei Boguia, uiuia. Ma com'è se ne state mai, a sopra il quadrato noi, che i tipi ci puoi dare questo attacchio, e veniva un bel, ha fatto sì tu al quadrato. E allora il nostro zio sempre al quadrato, c'era il venerdì, si chiamava venerdì tuning, faceva le macchine tutti i laborati con i rusi sotto, subito fu fare a me. la megane ruia va vivo con le fiamme, io l'antenna del baracchino l'EM va vivo, collega dalla radio, bassi effetto boi yuk, e poco pure e gabbuia. E va vivo Alpine, la 1400 Alpine va vivo. Cappa, qualcuno vuole entrare? No, no, nessuno, no, stavo ascoltando, guarda, perché mi ti vedo a ridere. Ciao Pupu, buonasera. Buonasera, buonasera a tutti, comunque, se volete venire qui, non c'è problema, di fronte a casa mia, c'è di tutto, c'è, cazzo, ci sono prostitute, di tutto c'è. Io mando a prostitute e mi mangio di una sotto le bede e mi porto una... Cosa di tu che fai, bra? No, no, non l'ho fatto. Vai, ogni amare, si attacchi a vizia pittora, non basta fare lui, bugia, una volta è un buccato da fiori. L'hanno detto dalla CIA. La democrazia, biga. E cosa li fatti? Ma no, che c'è un locale che tu vai di fronte, veramente entra gente doca, entra gente tranquilla. Non entra, non entra casino in Kibimi. Buongiorno, buongiorno a tutti comunque. No, se vuole fare il sesso quello è meglio che si porti un po' di soldi qua, perché non ne basteranno 100 euro per 5 minuti, non sono l'altro. Ciao Antonello. Non va, sta chiamando Franco. Non mi senti a me Antonello? Ciao Fra, saluto anche te. Mi hai sentito? Ciao. Va bene, vai ragazzi, io vi mollo, vai, vi mollo. E ce la riascoltiamo le prossime. Ciao Antonio, ciao Antonello, ciao Giovanni e ciao anche a Gianni. Ci sentiamo le prossime. Avanti già. Ok, da, va bene, ok, ci sentiamo le prossime, stammi bene allora, cosa vuoi dire? Niente, boh. Scappa. Gianni, ci sei? Tutto montato, ci sono tu. No, avevamo lì, l'abbiamo detto, ci siamo i puttenti, voi Gianni, ha fatto una sigaretta di tabacco, che era marramanenti. Ma se mi arrivendi. Ah, ecco, ecco. Comunque non è una tattica quella lì che ha detto poco fa. Va bene, va bene. Io sono d'accordo. Comunque ciao a tutti, dai, ci sentiamo, che bollo tutto io, che devo scendere giù. Cappa, dai, ci sentiamo alle prossime. Buona. Cappa. A te. Ho capito. Ma non senti a Giovanni? Io lo sento, ciao. A voi, a voi. Hai visto? Bene, mi senti? Ma non sei vicino a noi però. Segnale 5 era le 5, la verità. Lui dall'altra parte della città, eh? Allora è abbastanza buono, dai. Va bene, no tu? Sì. Tutto va bene, dai. È tutto da cambatti, eh. Cazzo, figurati. Mi saranno il minimo da dove sei tu, a Edo. Mi saranno il minimo 7 chilometri. Forse anche di più. Non lo so quanto sia di distanza tra lui e Franco di Sosso, la verità. Comunque sia, ascolto a tutti. Io da qua, comunque sia. È molto lontano. Io sono un po' più, cioè, da dove è lui, che diciamo in un fosso a confronto a me in un fosso, da dove lui è cosa, cioè è molto lontano, però vedi, il segnale non è fortissimo, però la radio arriva a bomba. Sì, no, già lo so anch'io, infatti gli ho risposto, tutto lì, poi non lo so, se gli altri non lo ascoltano, non so i problemi miei, questo è il problema, tutto lì. Oh, bene. E Gianni è rientrato, Dimmi. Ma ci ho fatto pure una sigaretta, mi hai condito un minnaia. Ma ci ho fatto la sigaretta di tabacco, quella ramanenti.